Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Morrel e l'inglese erano rimasti soli. «Ebbene, signore», disse Morrel lasciandosi cadere sulla poltrona, «avete visto e ascoltato tutto. Non ho altro da aggiungere». «Ho visto, signore», disse l'inglese, «ho visto che vi è capitata una nuova disgrazia, immeritata come le altre, e ciò mi ha confermato nel desiderio che già avevo di esservi utile». «Oh, signore», disse Morrel, «desiderate una dilazione del pagamento?» «Una dilazione potrebbe salvarmi l'onore», disse Morrel, «e di conseguenza la vita». «Quanto tempo vi occorre?» Morrel esitò. 2 mesi», disse. «Bene», fece lo straniero. «Ve ne darò 3. Rinnovatemi tutte queste cambiali al 5 settembre. E al 5 settembre, alle 11 del mattino», il pendolo segnava le 11 proprio in quel momento, «mi presenterò a voi». «Vi aspetterò, signore», disse Morrel, «e sarete pagato, o io sarò morto». Queste ultime parole furono pronunciate a voce così bassa che lo straniero non poté sentirle. L'inglese ricevette i ringraziamenti con la flemma tipica della sua gente e prese congedo da Morrel, che lo condusse, benedicendolo, fino alla porta. Sulle scale incontrò Julie. La ragazza fingeva di scendere, ma in realtà lo stava aspettando. «Oh, signore!» disse con le mani giunte. «Signorina!» disse lo straniero. «Un giorno riceverete una lettera firmata Sinbad il marinaio. Fate esattamente ciò che vi dirà la lettera, per quanto strana vi possa sembrare la raccomandazione». «Sì, signore», rispose Julie. «Mi promettete di farlo?» «Ve lo giuro». «Bene. Addio, signorina. Siate sempre buona e saggia come siete, e ho fiducia che Iddio vi ricompenserà dandovi per marito l'uomo che amate, Emmanuel». Lo straniero riprese il cammino facendole un gesto di addio. Nel cortile incontrò Penelon. «Venite, amico mio», gli disse, «devo parlarvi». Tutto il mese trascorse in sforzi inauditi da parte di Morrel per radunare tutte le proprie risorse. In altri tempi i suoi effetti, con qualunque data, erano accettati con fiducia e anzi richiesti. Morrel tentò di negoziare degli effetti con scadenza da 90 giorni, ma tutte le banche rifiutarono. Morrel aveva pensato ad Danglars, divenuto milionario e un tempo suo sottoposto. Da molto tempo Morrel aveva pensato ad Danglars, ma vi sono istintive repulsioni che non si riescono a superare. Aveva aspettato fino a che gli era stato possibile, prima di ricorrere a quell'ultimo mezzo, e aveva avuto ragione, poiché ritornava prostrato dall'umiliazione di un rifiuto. Al ritorno non emise alcun lamento, né proferì alcuna parola di recriminazione. Abbracciò piangendo la moglie e la figlia, stese la mano amichevolmente a Emmanuel e si chiuse nel suo studio del secondo piano. Le due donne dissero a Emmanuel: «Questa volta siamo perduti». Quindi, in un breve conciliabolo tenuto fra di loro, convennero che Julie avrebbe scritto al fratello di guarnigione a Nîmes di venire immediatamente. Le povere donne sentivano istintivamente di aver bisogno di tutte le loro forze per sostenere il colpo che le minacciava. D'altra parte, Maximilien Morrel, quantunque giovane, di appena 22 anni, aveva già una grande influenza sul padre. L'indomani, Morrel sembrava perfettamente tranquillo. Rimase nel suo studio come al solito e come di consueto scese a fare colazione. Solo dopo pranzo fece sedere la figlia vicino a sé, cinse la testa della ragazza con il braccio e la tenne a lungo contro il petto. La sera Julie disse alla madre che aveva notato che il cuore del padre batteva violentemente. Durante tutta la notte, dal 4 al 5 settembre, le due donne aspettarono Maximilien. Alle 8 la porta si aprì e Julie sentì due braccia che la stringevano e un bacio sulla fronte. Alzò gli occhi ed emise un grido di gioia. «Maximilien, fratello mio!» gridò. A queste grida, la signora Morella accorse e si gettò fra le braccia del figlio. «Madre mia!» disse il giovane, guardando ora la madre e ora la sorella. «Cosa c'è? Che accade? La vostra lettera mi ha spaventato e sono corso qui!» La signora Morrel raccontò tutto a suo figlio. Il giovane si lanciò allora fuori dalla camera, salì rapidamente le scale credendo di trovare il padre nello studio, ma bussò invano. Mentre bussava alla porta, sentì che quella della camera si apriva. Si volse e vide suo padre. Invece di risalire direttamente al suo ufficio, Morrel era entrato in camera e ne usciva solo allora. Emise un grido di sorpresa vedendo Maximilien, poiché ne ignorava l'arrivo. Rimase immobile al suo posto e strinse con il braccio sinistro un oggetto che teneva nascosto sotto il soprabito. Maximilien scese in fretta la scala e si gettò al collo del padre. Ma d'improvviso si ritrasse, lasciando soltanto la mano destra appoggiata al petto di Morrel. «Padre mio!» disse, diventando pallido come la morte. «Perché avete due pistole sotto il soprabito?» «Maximilien!» rispose Morrel, tenendo lo sguardo fisso sul figlio. «Tu sei un uomo, e un uomo d'onore, vieni, te lo dirò!» Morrel salì con passo sicuro fino al suo ufficio. Si avvicinò allo scrittoio, posò le pistole sull'angolo del tavolo e mostrò al figlio con la punta del dito un registro aperto. Su di esso era fedelmente trascritto lo stato esatto della situazione. Entro mezz'ora Morrel avrebbe dovuto pagare 287.500 franchi e in tutto ne possedeva 15.257. «Leggi!» disse Morrel. Il giovane lesse e per un attimo rimase sgomento. «Avete esaurito tutte le vostre risorse?» «Tutte.» «E fra mezz'ora», disse Maximilien con voce cupa, «il nostro nome sarà disonorato.» «Il sangue lava il disonore», disse Morrel. «Avete ragione, padre mio. Ora vi comprendo.» Morrel prese la testa di suo figlio fra le mani, la avvicinò a sé e vi impresse molti baci dicendo: «Ti benedico nel mio nome e nel nome di tre generazioni di uomini irreprensibili. Ora lasciami solo e cerca di tenere lontano le donne.» Morrel ricadde sulla sedia. I suoi occhi si volsero verso il pendolo. Non gli restavano che 7 minuti. La lancetta avanzava con una rapidità incredibile. Gli sembrava di vederla muoversi. Un sudore freddo gli passò sulla fronte e un'angoscia mortale gli strinse il cuore. Sentì la porta delle scale cigolare sui cardini, poi quella del suo studio che si apriva. Il pendolo stava per battere alle 11. Morrel non si voltò. Avvicinò l'arma alla bocca. All'improvviso sentì un grido. Era la voce di sua figlia. Si voltò e vide Julie. La pistola gli sfuggì di mano. «Padre mio!» gridò la ragazza ansante e quasi soffocata dalla gioia. «Salvo! Siete salvo!» E gli si gettò tra le braccia, alzando in alto con la mano una borsa di seta rossa. «Salvo! Figlia mia, ma che vuoi dire?» disse Morrel. «Sì, salvo! Guardate! Guardate!» disse la ragazza. Morrel prese la borsa e trasalì, perché un vago ricordo gli richiamò alla mente che quell'oggetto un tempo gli era appartenuto. Da una parte c'era la cambiale dei 287.500 franchi già quietanzata, dall'altra gli era un diamante della grandezza di una nocciola, con queste tre parole scritte sopra un pezzo di pergamena: dote di Julie. Morrel si passò la mano sulla fronte. Credeva di sognare. Il pendolo batté le 11. In quel momento entrò Emmanuel con il viso sconvolto dalla gioia e dall'emozione. «Il faraon!» gridò. «Il faraon! Ebbene, che cosa il faraon? Siete pazzo, Emmanuel! Sapete bene che non esiste più!» «Il faraon, signore! Segnalano l'arrivo del faraon! Il faraon sta entrando in questo momento nel porto!» «Andiamo, andiamo, figli miei!» disse Morrel. «Andiamo a vedere! E che Dio abbia pietà di noi, se la notizia è falsa!» Una gran folla era sul porto. Tutta quella gente si divise per lasciare libero il passaggio a Morrel. «Il faraon! Il faraon!» gridavano centinaia di voci. Infatti, cosa meravigliosa e incredibile, di rimpetto alla torre di San Giovanni un bastimento portava sulla poppa queste parole scritte a grandi lettere bianche: «Faraon, Morrel e figlio, Marsiglia». Mentre Morrel e suo figlio si abbracciavano fra gli applausi di tutta la città, testimone di questo prodigio, un uomo, il cui viso era per metà coperto da una barba nera, nascosto dietro la garritta di una sentinella, contemplava commosso questa scena, mormorando queste parole: «Nobile cuore, sii felice, sii benedetto per tutto il bene che hai fatto e che ancora farai, e la mia riconoscenza resti nell'ombra come le tue buone azioni. Ora», aggiunse, «addio bontà, addio umanità, addio riconoscenza, addio a tutti quei sentimenti che allargano il cuore». Agli inizi dell'anno 1838 si trovavano a Firenze due giovani appartenenti alla più elegante società di Parigi. Uno era il visconte Albert di Morcerf, l'altro il barone Franz d'Épinay. Si erano accordati tra di loro per andare a trascorrere il carnevale di quell'anno a Roma, dove Franz, che abitava in Italia da più di 4 anni, avrebbe fatto da cicerone ad Albert. Quindi Albert, volendo mettere a profitto il tempo che gli rimaneva, partì per Napoli. Franz rimase a Firenze. Dopo essersi goduto per un po' la vita nella città dei Medici, gli venne il desiderio, avendo già visitato la Corsica, culla di Bonaparte, di vedere l'isola d'Elba, luogo della sosta forzata di Napoleone. Una sera, dunque, egli si imbarcò in una piccola imbarcazione attraccata nel porto di Livorno. Si sdraiò sul fondo e disse ai marinai: «All'isola d'Elba!» La barca lasciò il porto come un uccello di mare lascia il nido e l'indomani approdò a Porto Ferraio. Franz attraversò l'isola imperiale seguendo le orme lasciate dai passi del gigante e andò a imbarcarsi a Marciana. «Se vostra eccellenza volesse», gli disse Gaetano, il padrone della barca, «potrebbe fare una bella caccia». «E dove?» «Vedete quell'isola?» continuò Gaetano puntando un dito verso sud e indicando una massa conica che sorgeva in mezzo alle acque tinta di un bellissimo colore indaco. «Ebbene, che isola è?» domandò Franz. «È l'isola di Montecristo», rispose il livornese. «Ma io non ho la licenza di caccia per quell'isola. Vostra eccellenza non ne ha bisogno. L'isola è deserta. E quale selvaggina vi si trova? Migliaia di capre selvatiche. E in questo caso andiamo a Montecristo». Era passata circa un'ora dopo il tramonto del sole, quando Franz credette di scorgere a un quarto di miglio a sinistra una massa nera. Ma era quasi impossibile distinguere cosa fosse, e temendo di suscitare l'ilarità dei marinai scambiando una nube vagante per la terraferma, rimase zitto. All'improvviso apparve una gran luce sulla riva. La terra poteva assomigliare a una nube, ma quel fuoco non era certo una meteora. «Cos'è quella luce?» domandò Franz. «Zitto!» disse il padrone. «È un fuoco! Ma non dicevate che l'isola è disabitata? Ho detto che non ha una popolazione stabile, ma questo luogo è un rifugio di contrabbandieri e di pirati!» Gaetano costeggiò la luce, mantenendo sempre la barca nella zona meno illuminata. Quindi, quando fu completamente all'altezza del fuoco, puntò su quello ed entrò coraggiosamente nel cerchio luminoso, intonando una canzone da pescatori di cui cantava le strofe da solo, e i compagni ripetevano in coro il ritornello. Quando il battello fu a 20 passi dalla terraferma, l'uomo che si trovava sulla riva fece macchinalmente con la carabina un gesto simile a quello di una sentinella che attende una pattuglia e gridò: «Chi va là?» in dialetto sardo. «Vostra eccellenza», chiese il padrone, «vuole dire il suo nome o vuole conservare l'incognito?» «Il mio nome deve essere del tutto sconosciuto», rispose Franz. «Quindi dite loro soltanto che sono un francese che viaggia per piacere». Quando Gaetano ebbe data questa risposta, la sentinella diede un ordine a uno degli uomini seduti davanti al fuoco, il quale subito si alzò. Scomparve fra le rocce e ricomparve all'improvviso dal lato opposto a quello in cui era sparito. Fece un segno con la testa alla sentinella, che voltandosi verso la barca si limitò a dire queste sole parole: «S'accomodi!» Gaetano saltò sulla spiaggia. Scambiò ancora qualche parola a voce bassa con la sentinella. I compagni scesero l'uno dopo l'altro. Poi fu la volta di Franz. «Ebbene?» domandò. «Che c'è di nuovo?» «Il capo», disse Gaetano, «qui è stato detto che siete un giovane francese, vi invita a cena con lui, ma pone una singolare condizione alla vostra visita». «E qual è la condizione che mi impone?» «Che vi lasciate bendare gli occhi e che non tentiate di togliervi la benda se non quando vi inviterà lui stesso a farlo». Franz indagò con attenzione lo sguardo di Gaetano per sapere ciò che nascondeva quella proposta. «Che fareste voi al mio posto?» disse il giovane. «Io? Oh, io che non ho niente da perdere, accetterei». «Accettereste? Se non altro per curiosità. C'è dunque qualcosa di particolare da vedere da questo capo?» «Si dice che questo personaggio abiti in un palazzo sotterraneo. in confronto al quale Palazzo Pitti è davvero poca cosa. È un sogno, disse Franz. Una voce disse in buon francese, sebbene con un accento straniero: «Signore, siete il benvenuto in casa mia e potete togliervi la benda». Come si può intuire facilmente, Franz non si fece ripetere l'invito due volte. Si tolse il fazzoletto e si ritrovò di fronte a un uomo sui 38-40 anni che indossava un costume tunisino, vale a dire una calotta rossa con una lunga nappa di seta blu, una veste di panno nero tutta ricamata d'oro, pantaloni color sangue di bue larghi e gonfi, ghette dello stesso colore orlate d'oro come la veste e babbucce gialle. Benché di un pallore quasi livido, quell'uomo aveva un viso molto bello. Gli occhi erano vivi e penetranti. Il naso dritto e quasi a livello della fronte tradiva il tipo greco in tutta la sua purezza, e i denti bianchi come perle spiccavano mirabilmente sotto i baffi neri che li inquadravano. Soltanto quel pallore era strano. Si sarebbe detto un uomo rinchiuso da lungo tempo in una tomba, che non avesse potuto riprendere il colore dei vivi. Ma ciò che meravigliò Franz, che aveva giudicato un sogno il racconto di Gaetano, fu la sontuosità degli arredi. Tutta la camera era parata di stoffa turca color cremisi, intessuta a fiori d'oro. In un angolo c'era una specie di divano sormontato da un trofeo di armi arabe con i foderi d'argento e con impugnature risplendenti di pietre preziose. Dal soffitto pendeva una lampada di cristallo di Venezia di forme e colore mirabili, e i piedi posavano sopra un tappeto turco, affondando sino alla caviglia. L'ospite lasciò Franz per alcuni istanti sbigottito dalla sorpresa, e intanto non tralasciava di esaminarlo da capo a piedi. «Signore», disse infine, «vi chiedo mille volte perdono delle precauzioni che sono stato costretto a prendere per introdurvi presso di me, ma siccome per la maggior parte del tempo quest'isola è deserta, se il segreto di questa dimora fosse conosciuto, al mio ritorno senza dubbio troverei questo mio piedatere in cattivo stato. Ora però cercherò di farvi dimenticare questo piccolo fastidio con offrirvi ciò che non avreste certamente sperato di trovare qui: una discreta cena e un buon letto». «In fede mia, caro ospite», rispose Franz, «non è necessario che vi scusiate per questo. Ho sempre saputo che si bendano gli occhi alle persone che entrano nei palazzi incantati. Così accade per esempio a Raoul negli Ugonotti, e davvero non posso lamentarmi, perché ciò che mi mostrate appartiene alle meraviglie delle mille e una notte. Ahimè, vi dirò come Lucullo. Se avessi saputo di avere l'onore di una vostra visita, mi sarei preparato. Ma infine, metto a vostra disposizione il mio eremo così com'è, e così com'è vi offro la mia cena. Ali, vuoi servirci? Quasi nel medesimo istante, la tenda si sollevò e un nubiano, nero come l'ebano e vestito di una semplice tunica bianca, fece segno al padrone che poteva passare nella camera da pranzo. Ora, disse lo sconosciuto a Franz, sappiate che rispetto troppo le leggi dell'ospitalità per domandarvi il vostro nome o il titolo. Vi prego soltanto di indicarmi un qualsiasi appellativo con l'aiuto del quale possa rivolgervi la parola. Quanto a me, per mettervi a vostro agio, vi dirò che di solito mi chiamano Simbad il marinaio. E io, rispose Franz, vi dirò che, siccome non mi manca altro per essere nella situazione di Aladino che la famosa lampada meravigliosa, non ho nessuna difficoltà che per il momento mi chiamiate Aladino. Ebbene, signor Aladino, disse lo strano anfitrione, avete sentito che è stato apparecchiato, non è vero? Vogliate dunque avere la bontà di passare nella sala da pranzo. Franz passava da incanto a incanto. La tavola era splendidamente apparecchiata. Una volta rilevato questo importante particolare, volse lo sguardo intorno a sé. La sala da pranzo non era meno splendida del salottino. Era tutta in marmo, con bassorilievi antichi di enorme valore, e alle due estremità di questa sala oblunga c'erano due magnifiche statue con in capo dei cestelli contenenti magnifiche piramidi di frutta: ananassi di Sicilia, melagrane di Malaga, arance delle isole Baleari, pesche di Francia e datteri di Tunisi. Il convitato fece i complimenti al suo ospite. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti.